stata molto bella, sono contento. Lo voglio dedicare assolutamente al Ziz. Secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Bisogna stare sereni. Quando le cose non vanno benissimo, bisogna mantenere calma e serenità. Un grandissimo entusiasmo che questo Open Italia meritava. È stato un giro incredibile, assolutamente. Specialmente le seconde nove sono state probabilmente le migliori della mia vita. Tutti convocati di Carlo Genta. Me fumano altri 80% dei miei colleghi, anche se fumano di nascosto, e continueremo a farlo di nascosto. Io zappavo la terra. Chissà se fumava anche lui. Chissà quante ne avrete oggi la diera, eh? Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, tutti convocati al numero 800240024, numero verde. Weekend di fumo, di polvere e polveroni, non solo quelli sacri della Rubé che hanno incoronato ancora Cancellara. Weekend di partite polverizzate in episodi, attori protagonisti, Tagliavento e Gervasoni, di fumo e polvere che si infila nelle rotelle dei tifosi o dei dirigenti tifosi che sbroccano come genitori di malcostume sui campetti di periferia. Insomma, un weekend di fumo rancido che dovremo respirare fatalmente fino al 18 di maggio, quando ci verrà voglia di andare a fare le vacanze in un pallone in un paese qualunque dove i palloni sono rettangolari. Weekend di fumo come quello di Balotelli sul treno per Firenze, beccato come un bambino al bagno che fumava, con la gag di Galliani che ruba il cappello rosso al capotreno. Mi sa che avrebbe bisogno di un elmetto Galliani. Allora partiamo dal fumo di Firenze, dal fumo di Firenze e conseguenze. No, non ha cacciato via il pallone, credo che lui era a mezzo metro, è stato bravo a battere la punizione, lui ci ha messo il piede. Io non posso pensare che tutte le domeniche Balotelli possa essere decisivo, io lo spero, anche perché sarei molto più tranquillo, perché vorrebbe dire che sarebbe più facile vincere. Però si è messo a disposizione la squadra, ha lavorato, ha commesso questa piccola ingenuità che purtroppo gli costa la partita di Napoli, ma tanto era diffidato, una partita la doveva saltare, e voi dite era meglio se saltava la penultima. Però c'è Pazzini che sta in una buona condizione e credo che domenica ci prepareremo per fare una grande partita. Quando giochi contro un avversario così forte, così esperto come il Milan, non basti il cuore, ci vuole l'organizzazione, la convinzione, la determinazione, forse anche un pizzico di incoscienza, però non è che recuperi due gol al Milan soltanto con il cuore o pensando di dover fare un miracolo, ci vuole anche un processo anche tattico, anche soprattutto credo di convinzione. Avete sentito Allegri e Montella dopo il 2-2 di ieri a Firenze, che tanto fumo ha alzato e alzerà, anche perché in prospettiva c'è l'altro fumo di Milan-Napoli senza Balotelli che, oltre a farsi beccare nel cesso del treno a fumare le sigarette, ha beccato anche un'ammonizione stupida che lo porterà fuori dalla partita più importante di questo scorcio di stagione. C'è chi mi scrive: quanto starò godendo per il mio amico Valentino Rossi, beh, sia contenta di poco, non la invidio, ma nemmeno io invidio lei, caro ascoltatore, sono molto felice per Valentino Rossi, finalmente l'ho rivisto sul podio, sono suo tifoso, punto. E mi piacerebbe con voi parlare anche di questo, 800 24 00 24, ma chissà quante sigarette avrà fumato Moratti ieri sera. No, commento lo faccio solo a rigore, perché... Però mi dicono che è una partita... No, ma il gol è stato superiore, 3-2, poi dopo hanno fatto altri due gol, ha meritato. No, un rigore di questo genere cambia veramente una partita, perché un rigore ingiusto mette una squadra in condizione di sentirsi non considerata. io credo che siano 20 o 21 le partite in cui non ci danno rigore. Credo che statisticamente sia impossibile non aver avuto occasione da rigore in 21 partite, compreso oggi. Un rigore inesistente che ti viene dato contro, allora tutta la buona fede di tutti, ma io non ci credo. Io non ci credo. Non crede alla buona fede? No. Probabilmente Gervasoni ha fischiato un tocco di mano di Samuel sul colpo di testa di Dennis. Dennis non se ne era neppure accorto, stava andando a dare la palla per il calcio d'angolo. C'è Samuel che cerca di ostacolare Dennis, salta col braccio un po' alto. Io sinceramente il fallo di mano qui non riesco a vederlo. Penso che sia stato ingannato da questo movimento Gervasoni e abbia visto poi la palla schizzare pensando che l'avesse toccata Samuel, invece dalle immagini sembra chiaro che il tocco sia stato di Dennis. La palla che avete sentito ora non l'ha visto, anche perché non c'era quel rigore, questo mi sembra solare, però è anche vero che l'Inter, al di là dei sassi in questo caso tirati da Moratti sulla buona fede di Gervasoni, l'Inter ha beccato 3 gol in 12 minuti e anche questo è un fatto. Dunque, chiudiamo traffico, prespetta col traffico, perché chiudiamo, stasera c'è il derby di Roma che non è mai una partita semplice, grande assente rispetto alla partita di andata, Zeman, chissà quante ne fumerà anche lui stasera sul divano di casa se guarderà la partita. Derby ce l'avete voi, voi pompate, per voi è una guerra, per me è sport, calcio, ha altri valori, altre cose. Io continuo a dire, io ho tanti amici laziali come ce l'avete voi, voi li rinegate quando si gioca a derby, non li conoscete, però poi siete amici, siete normali, come per me una partita di calcio dove si gioca supremazia della città, però è sempre una partita di calcio, bisogna prenderla per quello, non è la guerra. Dunque adesso traffico, poi comincio ad aspettarvi, comincio a rispondervi, 800 24 00 24, tutti convocati. Percepisco un pochino poco rispetto per questa maglia, per questi colori, per questi tifosi, poi l'ho detto, magari mi cacciano, mi espatriano. Tutti convocati. Tutti, ma proprio tutti, 800 24 00 24. Partiamo da provincia di Venezia, Nunzio. Sì, buongiorno signor Genta, grazie buongiorno per avermi convocato. Volevo fare una considerazione su Tagliavento, poi volevo fare una domanda sull'Inter. Sì. Allora, avendo giocato un po' a calcio, non tantissimo, però analizzando diciamo l'errore sulla partita che ha fatto Tagliavento, secondo me Tagliavento alla fine del primo tempo si è accorto di aver sbagliato, o qualcuno gli ha detto di averla combinata grossa, e ha provato a rimediare, e questo secondo me è il peggior sbaglio che certo possa fare un altro. Si chiama compensazione, ed è quanto di come dice lei, di più sbagliato un arbitro possa fare. Poi non lo so se sia andata veramente così. Esatto, niente, quella sull'Inter, volevo fare una domanda a lei. Secondo lei è più grave l'errore che ha fatto Gervasoni, dando un rigore inesistente, o è più grave l'errore che ha fatto Egidio Ranocchia, visto che è simile a quello che faceva Calloni negli anni 70-80, insomma? Ma sai, comodo, Nunzio, lei sa meglio, è inutile, la risposta se l'è data da solo, lei sa meglio di me come è molto più facile dare la colpa all'arbitro, ma sono particolarmente gravi e pesanti le parole, anche se ovviamente a caldo, di Moratti, che mette in gioco e in discussione la buona fede degli arbitri agitando il fantasma di un complotto antinterista. Ora non mi sembra il caso, perché insomma l'Inter è ridotta ai minimi termini, questo lo sapevamo, si è capito in Italia e in Europa, dove non c'è questo, non penso ci sia questo complotto cosmico. L'Inter ha perso tutti i giocatori che poteva per infortunio, è una squadra che ha perso anche la fiducia, che ha perso probabilmente anche la lucidità nella guida del suo allenatore, e poi quando succede tutto questo arriva anche il Gervasoni di turno che ti compromette alla fine quello che rimaneva un filo di speranza, no? Quello di, anche irragionevole se vogliamo, cioè quello di agganciare le tre che andranno in Champions League. insomma, non, io sono dell'idea che non si debba perdere la testa in questo momento, però è fatale che ciò accada. Siamo alle ultime giornate di campionato, gli errori arbitrali si notano molto di più, valgono molto di più come alibi e come giustificazioni per gli errori che sono stati fatti prima da giocatori, da dirigenti, eccetera, eccetera. E quindi siamo abbastanza avvezzi a queste cose. 7 giornate alla fine del campionato, non sarà l'ultima domenica di polvere e fumo. Antonio, provincia di Arezzo. Sì, buongiorno. Grazie di avermi richiamato. No, io volevo, lei ha già risposto alla domanda del signore di prima, perché io volevo dire che secondo me, se guardare le partite e pensare sempre o alla malafede degli arbitri o complotti vari, penso che il calcio sia finito. Il calcio va guardato per i 90 minuti della partita, poi ognuno guardi, è libero di giudicare, ma senza eccessi, senza poi vedere lei... liste in campo tra professionisti che prendono tanti soldi. No, ma, guarda, no, ma aspetti, aspetti, è andato benissimo fino adesso. Io condivido quanto ha detto sui soldi, insomma, glisserei. Però anche vedere le risse in tribuna tra dirigenti che non sappiamo quanto prendono di stipendio, però perdono la testa come, e saltano come tappi di champagne, a me dà forse ancora più fastidio, perché non può esserci l'adrenalina del campo, non deve esserci in tribuna l'adrenalina del campo, e questo vale ovviamente per tutti. Saluto e ringrazio Antonio Maglia, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Buongiorno, buonasera. Siamo qui a soffiare sulla nebbia, a soffiare sul fumo che questa domenica ha creato. Ma sappiamo bene, no, Antonio, che a fine stagione saltano i nervi anche quelli di chi sta in tribuna, oltre a quelli di chi sta in campo. E allora il grande alibi dell'arbitro, il grande fantasma del complotto salta fuori fatalmente. Sì, diciamo che ci sono un po' di cattive abitudini in questa vicenda qui. Tanto per iniziare, io sottolineerei l'aspetto positivo di quel che è accaduto ad esempio a Firenze ieri, cioè la grande risposta che è stata data sia dal sindaco che era in tribuna che dalla dirigenza Viola. Secondo dato, che non diventi un alibi per i presidenti, perché in questo mio girovagare per l'Italia ormai trentennale, ma io ho conosciuto tante tribune che più che d'onore dovrebbero essere definite del disonore. Sì. Cioè non si capisce perché mai in quello che dovrebbe essere il settore, come dire, da un certo punto di vista più tranquillo, più rispettoso delle regole dello stadio, poi capita che invece ci sia, avvenga dell'altro. Quindi l'invito ai presidenti è di fare una profonda riflessione su come queste famose tribune vengono gestite e vengono popolate. Sì. Ultimo dato, direi che l'eccesso di adrenalina a fine campionato non è mai un buon, come dire, non è mai una buona giustificazione. Io credo che tutti quanti noi nel nostro mestiere, in tutti i mestieri, ci portiamo dietro l'adrenalina perché, voglio dire, dobbiamo raggiungere l'obiettivo, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare delle cose in un determinato tempo, soprattutto noi giornalisti che lavoriamo sempre contro il tempo. Però est modus in rebus, cioè credo che dobbiamo cominciare un po' a interrogarci su dove vogliamo portare il calcio italiano oggettivamente, perché in questa maniera non lo portiamo da nessuna parte. No, interrogatorio o interrogazione non parlamentare che è aperta da un sacco di tempo, ma poi sai, abbiamo un bel discutere se poi Moratti tira fuori, sebbene a caldo, ripeto, quella frase che è molto pesante, no? Alla buona fede non ci credo, non ci è andato un rigore in 21 partite, siamo l'Inter, vogliamo rispetto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è un Inter che è tale solo per il colore delle maglie, perché in questo momento è una squadra di media classifica. Sì, non direi anzi che aveva già fatto molto prima. Poi d'altro canto, io più ai rigori, ai rigori che non sono stati dati all'Inter, farei una riflessione sulle scelte tecniche che l'Inter ha fatto sia nel mercato estivo che poi nel mercato autunnale. Cioè, l'Inter ha rinunciato ad avere un parco attaccanti, sì. Ha mandato via Livaia, che insomma poteva essere utile, cioè l'Inter in questo momento paga quelle scelte e la saldatura di quelle scelte non propriamente felici con un momento infelice dal punto di vista dell'infortunio, per cui certo. Si ritrova senza giocatori in ruoli chiave come sono quelli offensivi. Qui capisco l'amarezza, capisco tutto, ma credo che l'Inter abbia problemi più strutturali di un rigore dato. Sì, appunto, perché quello poi diventa un grande paravento. Un'ultima considerazione, Antonio Maglie: il Napoli vede il traguardo dopo la giornata di ieri, forse. E il Palermo vede il traguardo della salvezza, che non meriterebbe, non il Palermo, non Sannino, ma Zamparini. Io proporrei la retrocessione in Serie B di Zamparini. Zamparini è un personaggio fantastico da un certo punto di vista, è un uomo che ci fa scrivere tanto, quindi sì, in effetti quest'anno devo dire ne ha combinati di tutti i colori, nel senso che ha fatto il gioco dell'oca, è tornato alla casella di partenza dopo essere stato rimandato indietro diverse volte. Sì. Io non lo so, il Napoli, io dico che la soluzione del secondo posto si decide domenica. Certo. Io credo che le prime tre posizioni esprimono dal primato della Juve, un primato incontestabile, alla terza esprimono quello che il calcio italiano ha detto quest'anno. Sì. Cioè, esprimono esattamente i valori in campo. Poi ci sono squadre, ad esempio la Fiorentina, che ha prodotto un gran bel calcio, però non aveva le potenzialità per ambire a certi obiettivi. La Roma ha una qualità tecnica interessante, importante, ma ha fatto alcune scelte, a cominciare dall'allenatore, forse non propriamente in linea con gli obiettivi. Diciamo, quelle tre posizioni ora in questo momento sono occupate dalle tre squadre che hanno detto di più e che potevano dire di più. Diciamo che sono corrette. Diciamo che quelle tre posizioni sono corrette. Sì, io ero convinto che il Milan potesse ancora fare la corsa su Napoli, ma mi sembra un Milan in evidente calo dopo l'eliminazione con il Barcellona. Bisogna vedere, è tutto domenica. Certo, se fosse arrivato con due punti il Milan, con la possibilità, con la vittoria di superare e di portarsi in vantaggio nei confronti diretti, perché ricordiamo che l'andata fu 2-2, allora sarebbe stato un altro film, ma così adesso la vedo più difficile questa impresa per il Milan. Antonio, ti ringrazio. Grazie per essere stato voi, con noi. Grazie ad Antonio Maglie del Corriere dello Sport. Tocca a voi dopo la borsa, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Oh, ragazzi, fate i bravi. No, perché? Ma nessuno parla del gol di Natale, Ilicic bellissimi, oppure dica qualcosa per favore su quel mostro incompreso di Totò Di Natale, certi gol non li faceva neanche Maradona. Sembra che siamo qui apposta a fare del casino, ma ce l'abbiamo, è l'Oscar del gol, lo mandiamo tutti lunedì. Volete che ci si dimentichi di questo? And the Oscar goes to... Ecco Suel, chiama la palla lunga di Natale, eccolo servito di Natale! Che bellezza! 2-0, Totò Di Natale! Caputo è un fuoriclasse, un giocatore unico, ma veramente un fuoriclasse. Uno così io non l'ho mai avuto, non l'ho mai visto neanche, sì, Van Basten, un gol alla Van Basten, col sinistro fra l'altro, che non sarebbe neanche, non dovrebbe essere neanche il suo piede. Quando mi dicono, quando delle volte penso che in effetti in fase di non possesso palla Totò non è che dia un grande contributo alla squadra, dico vabbè, finché fa queste robe qua, meglio tenerlo così, meglio tenerlo fresco, perché se è fresco riesce a fare tante di queste cose qua. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Ok? Tutti contenti? Siamo ricordati del gol di Natale, parliamo anche di questo e parliamo di tutto e parliamo con voi. 800240024. Parla anche Beretta, che è presidente della Lega Calcio, che dice, parla dell'episodio di Firenze, episodio brutto che stona in maniera molto sguaiata e grave dentro un campionato che ha visto un drastico calo di episodi di violenti interno agli stadi. Quindi dalle curve alla tribuna d'onore, mettiamo pure tutti insieme, tanto mi sembra che i comportamenti siano quelli, no? Beretta, questo è il senso. I responsabili vanno isolati e sanzionati in maniera esemplare senza nessuna attenuante, sempre riguardo a Firenze. Mentre per quanto riguarda Moratti, reazioni a caldo, dichiarazioni a caldo su cui non voglio entrare. Insomma, in questo caso Beretta, su una dichiarazione grave secondo me di Moratti, ficca un po' la testa sotto la sabbia. 800240024, numero verde. Massimo, Udine. Pronto, Mundi. Grazie. Buongiorno. Per il servizio dell'Oscar del gol. Ma non possiamo dimenticarci che mi ha soddisfatto. Bene. E infatti il senso della mia chiamata era che, siccome questo calcio è anche un po' così bistrattato, nel senso che ci si sofferma sull'arbitro che dà o no il fuorigioco di rientro, il mani involontario eccetera, cioè ogni tanto parliamo delle cose belle, che io credo che quel gol di ieri non solo valeva il prezzo del biglietto, ma forse ha pagato i biglietti anche nelle altre partite. Certamente ha risolto i problemi degli highlights di questo campionato, no? E poi velocissimo, se Totti, che per amor di Dio è un fuoriclasse assoluto, è stato così avvicinato alla nazionale, perché non avvicinare Di Natale? Ha un anno in meno, sì. I numeri li ha, è chiaro che dopo Prandelli deciderà tra quei mesi che mancano eccetera. Beh, sì, ma però io non lo escluderei come senza attaccante. Sì, io dico solo che è presto, è dannatamente presto per pensare ai mondiali che saranno tra più di un anno, quindi secondo me sono un po' forzature quelle relative a Totti, così come quelle relative a Di Natale. Io andrei con i giovani, con quelli che ci sono, perché ora che le responsabilità le prendano loro. I grandi vecchi io li lascerei a casa, ma anche perché poi possono diventare delle situazioni di comodo o di alibi eccetera eccetera, mai Totti perché non l'hai fatto giocare, mai Di Natale perché non lo consideri. Io andrei con la nazionale di Prandelli, che a me piace così com'è. Filippo, provincia di Varese. Buongiorno a tutti. Salve signor Genta. Salve. Niente, volevo rilevare solo una cosa per quanto riguarda Fiorentina-Milan. Sì. Volevo parlare di calcio, lasciamo perdere il resto, non mi interessa. Davvero. Allora, no, niente, in modo particolare sul Milan, io sono tifoso del Milan, l'ho visto in una fase atletica calante. Vabbè, sì, anch'io, è in una fase atletica calante. Anche, ma io più che per il Barcellona... La rincorsa secondo me è stata lunga e faticosa. Esatto, no, ma io non intendo, cioè non dico che il Barcellona sia l'episodio responsabile di questo calo, io la penso come lei, cioè è stata una lunga rincorsa e adesso mi sembra che la benzina si stia via esaurendo da dopo la partita con il Barcellona. Sì, concordo. E l'unica cosa un'altra cosa che volevo farvi rilevare era l'allenatore, bravissimo, per amore del cielo, Allegri. E ieri secondo me non ha letto bene la partita, soprattutto nel secondo tempo, probabilmente doveva cambiare prima, doveva fare qualcosa nei primi minuti del secondo tempo, perché siamo stati troppo in balia della Fiorentina, che ha espresso il solito gioco, seppur comunque non è stata pericolosissima, ecco, cioè voglio dire, non è che... Era anche in 10, appunto dico. No, nel senso che comunque probabilmente vedendo la partita, è vero che poi con i se possono fare tanti ragionamenti, però probabilmente doveva un attimino così valutarla, no, meglio. Certo. Può essere ci siano anche delle, come dice lei Filippo, delle responsabilità di Allegri, non le so leggere in maniera chiara e precisa. Il discorso però rimane a monte, cioè rimane quello di prima, di un Milan che sta un po' tagliando il traguardo a motore spento, almeno in questo momento, e è la fase cruciale della sua rincorsa al Napoli, cioè il confronto diretto domenica prossima e così via. Balotelli ha fatto la prima fesseria da quando è al Milan, la prima fesseria vera, tanto la sigaretta sul treno per cui ha beccato la multa, quanto un'ammonizione stupidotta e risparmiabile, considerato il fatto che era diffidato e quindi salterà quella partita. È chiaro che se sei in vantaggio 2-0 e hai un uomo in più, i tre punti li porti a casa, se no degli errori si possono trovare un po' ovunque, compresi quelli di Allegri. Giovanni, Udine. Sì, saluti. Oggi Udine è molto presente, mi pare, no? Dopo la prudenza di Natale, sì, di ieri. No, volevo solo fare un parallelo, giusto per dire che ogni tanto la domenica ci regala delle prestazioni che... fatte da dei veri artisti, tra quella di Natale e la prestazione di Valentino Rossi di ieri, mi pare che non ci stia. Mi è piaciuto tantissimo la grinta di Valentino, dopo aver fatto forse un errore un po' stupido, ingenuo all'inizio, ma poi la rimonta è stata veramente incredibile. Soprattutto nella lotta con quel giovane Marquez che... Marquez è un fenomeno assoluto. Marquez è un fenomeno assoluto, però insomma voglio pensare che l'esplosione definitiva possa arrivare tra un annetto, quando voglio pensare che questa stagione sia sul duello Valentino Lorenzo, ecco, con Marquez a fare i suoi numeri, però voglio pensarla così, Giovanni. Allora, prima del traffico e prima di altri ascoltatori all'800240024, top 3 del weekend, dichiarazioni che vanno sul podio. Terzo gradino per il Trapp, il messaggio del Trapp al Bayern Monaco. Gianni, per concludere, se dovessi lanciare un messaggio al popolo juventino, cosa diresti? Mai dire mai, avrei sempre la speranza. Allora lanciane uno anche al popolo bavarese. Cazze in Nissage, ovvero? Non dire gatto, il resto l'abbiamo capito, il resto lo si sa. Allora, numero 2, secondo gradino del podio, la gag sulla camicia di Sannino con le iniziali e le mutande di Donadoni. State facendo già prima in classifica, Sì. Negli allenatori eleganti, no, Riccardo? Perché è il primo allenatore che vedo con le iniziali cucite sulla camicia, quindi almeno un record vezzo, sicuramente ce l'ha di eleganza. Beh, ma ognuno di noi c'ha qualche vezzo, io ogni tanto c'ho sempre su. Tra l'altro c'è la B di Beppe Sannino, non la G di Giuseppe, quindi anche lui. Fammi vedere dove ce l'ha Donadoni le iniziali. No, no, sul colletto non ce le ha, non so se neanche ha la camicia cifrata. È intima. Ah, Donadoni. No, no, ma è la verità, non è come credo tutti quanti. Buonasera innanzitutto, quanti i miei colleghi, perché in tutta la roba che abbiamo nel nostro materiale tecnico ci sono le iniziali, quindi no, anche sulla bianchina. Le iniziali sulle mutande, battutona di Donadoni da segnare in rosso. Adesso numero uno, torniamo a Firenze, Montella che vuole una cena da tagliamento. Dal campo si vedono delle cose che a volte sono sbagliate, a volte errate. Oggi mi sembravano palesemente chiare e infatti credo che, così come ho detto alle TV, avendo fatto una scommessa sul tagliamento all'inizio del secondo tempo, che mi debba dare una cena dove dovrò scegliere anche il ristorante, perché secondo me non era nemmeno fallo, oltre che non espulsione, ma lo dico a priori, secondo lui era così, però quindi lo sto dicendo a voi perché non vorrei che si tirasse indietro. Tutti convocati. Dunque rientriamo con ascoltatore Raffaele, provincia di Napoli, 800240024. Messaggi Moratti e Strama, basta, convinciamoci che dobbiamo ricostruire tutto, sei l'Inter e sul 3-1 non puoi prendere 3 gol, non attacchiamoci al niente, Luca della Nord. Beh, al niente magari no, però io sono più dalla parte di Luca che non da quella di chi parla di malafede degli arbitri, per quanto mi riguarda. Raffaele. Certo, buongiorno, la ringrazio per aver grazie invocato. Senta, volevo sapere una cosa, quando guarda, io non sono un tifoso né del Milan né dell'Inter, però quello che è successo ieri francamente è abbastanza scandaloso, soprattutto il rigore concesso all'Atalanta, non si capisce dove se lo sia. Io penso una cosa, ma non penso che insomma sia un campionato un po' troppo, anche la parte ideale è fuori dalla Juventus. Sia un campionato, non ho capito, sia un campionato un po' troppo? Troppo che gli arbitri stiano aiutando comunque la Juventus, anche se non ne ha bisogno perché sta dominando. Pescaria, francamente, secondo lei quel rigore era così netto da cartellino rosso? Perché la Juventus anche con Pescaria aveva difficoltà. Poi sì, ieri con l'Inter, con Milan, francamente con l'Inter non meritava così. E le parla un tifoso della Roma. No. E poi volevo sapere un pronostico per stasera sul derby. Che cosa basta, il derby impronosticabile. La Roma è sfavorita, secondo me. Perché viene da un momento un po' così, perché la Lazio ritrova Klose dal primo minuto, quindi io dico che vince la Roma, no? Perché questa è la legge dei derby. Ma sto facendo della demagogia, come ha fatto un po' anche lei, Raffaele, o della dietrologia, come ha fatto un po' anche lei, riferendosi a questo complotto pro-juventino. Ieri abbiamo visto un sacco di errori, torno a ripetere, alla fine dell'anno portano a molti più strilli rispetto ad altri momenti della stagione. Poi è inevitabile che ci siano questi polveroni che si alzano un po' sul nulla. Pietro Vicenza. Poi sentiamo un po' di altre voci del weekend, perché non c'è solo il pallone. Dica. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo, insomma, sono stato anticipato da quello che ha detto Moratti, che più che sugli errori di Gervasoni, sul rigore che assolutamente non era da dare, certo, l'Inter poi ha preso 3 gol in una maniera assurda, è stato bravissimo Dennis. 3 gol in 12 minuti ha preso. In 12 minuti, esattamente. Dennis è stato bravissimo, come è stato molto bravo Bonaventura. E poi tra l'altro Ranocchia a fine partita si è divorato un'occasione davanti al portiere, che era evidente, cioè, quindi più che sì, l'arbitro è stato responsabile perché era aperto la gara sul 3, che era quasi chiusa sul 3-1, però l'Inter comunque, io premetto che non sono né interista né atalantino, io tengo una grande squadra che si chiama Lanerossi Vicenza. Io ci tengo a dirlo. Sì, fa bene. E ha ragione su tutto il resto. Ed è stato anche fin troppo buono nel tralasciare il saloon da periferia che cui abbiamo assistito dopo, grande protagonista in quel caso Schelotto. Allora andiamo a sentire voci di altri sport del weekend. Valentino Rossi, cancellare re della Roubaix, l'Italia della Coppa Davis che viene estromessa dal Canada. Non potevo sperare e sognare un ritorno così. Sapevo che avevo un grande passo, quindi ho detto se riesco a partire bene devo cercare di fare un po' il matto ai primi due giri per liberarmi dei 2-3 davanti che magari mi fanno perdere tempo. Però un po' esagerato per passare Dovizioso, sono arrivato un pelo lungo. Poi in quel momento mi sembrava che Pedrosa fosse un po' più lento di me, ecco, però probabilmente ho sbagliato io e l'ho veramente sfiorato e sono dovuto andare largo. E da quel momento la mia gara è diventata un po' difficile, ecco. Piano piano riuscivo a prenderli e quindi mi veniva sempre più il sorriso giro per giro perché vedevo che arrivavo. Sapevo che se li avessi raggiunti li potevo fregare tutti e tre, ecco, quindi stavo godendo. Non pensavo neanche alla vittoria perché ero talmente finito che devo pensare tanto quando è stata l'ultima volta così, però è una cosa da non avere parole, perché tutti contro la squadra, tutti contro me alla fine, non so come l'ho fatto star davanti, non so come sono riuscito proprio a staccare gli altri e non so neanche come ha fatto alla fine la volata, per quello sono talmente felice, fierissimo avere il terzo sasso. E sbaglia di diritto Seppi. E allora dopo 2 ore e 24 minuti Milos Raonic archivia la pratica quarti di finale battendo nel loro primo confronto diretto Andreas Seppi col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 7-5, evitando dunque il tiebreak e consegnando al Canada il punto del 3-1. Pierluigi, provincia di Como, sì. Eccoci. Salve, Salve. Dottore, senta, una cortesia. Io parlavo riguardo di Valentino Rossi, no? Da tifoso e anche da sportivo. Da tifoso, diciamo, non sono tifoso di Valentino Rossi, no? Mentre invece da sportivo sono quello che quando vede determinate cose le vuole sottolineare. Allora, semplicemente dire che Valentino Rossi è stato un grande Valentino Rossi fino a quando non ha iniziato l'avventura con la Ducati, perché come lei sa benissimo, l'unica persona che ha saputo guidare la Ducati è stato Stoner. Sì. Tant'è vero che il dato che io volevo sottolineare è che il dovizioso della situazione è la persona che ha messo davanti di tre posizioni il Valentino Rossi, che correva con quella moto l'anno scorso. Sarà una moto riveduta, tutto quello che sicuramente sarà. Ma però sono anche questioni di caratteristiche dei piloti, cioè Valentino Rossi con quella moto non c'entrava nulla, non si è mai trovato un feeling tra la Ducati e Valentino Rossi, e onestamente l'ultima stagione se la potevano risparmiare un po' tutti, sia la Ducati che Rossi stesso, quindi è indubbio che sia così. D'altra parte la Ducati è una moto molto particolare e ci vogliono piloti con caratteristiche particolari e forse opposte rispetto a quelle di Rossi. Chiudiamo facendovi sentire invece un'intervista che il nostro Dario Ricci ha realizzato con Danilo Gallinari, il grande infortunato la settimana scorsa nell'NBA, giocatore che purtroppo perderemo per i prossimi europei di basket. Sentiamo domani però a Franco Piantanini, da autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, domani alle 2 siamo qui. Il ginocchio va un po' meglio, ho iniziato a camminare, a zoppicare un po' di meno, e quindi sto facendo un po' di riabilitazione, perché prima dell'operazione dovranno passare una decina di giorni. Senti, hai già scelto il chirurgo con cui fare l'intervento? So che da questo punto di vista Denver ti ha dato massima fiducia. Sì, no, non ho ancora deciso, e quindi penso di prendere la decisione nei prossimi giorni, però comunque la società mi appoggia per qualsiasi decisione io prenda, insomma. Gli europei sono impossibili, sarà un'estate di lavoro sul ginocchio, di recupero per cercare di essere pronti almeno per l'inizio della stagione prossima. Insomma, c'è stato molto, molto affetto da parte dei miei compagni di squadra, ma in generale anche delle persone, anche molto dall'Italia. Insomma, c'è stato un affetto incredibile che non mi sarei mai aspettato, che mi ha aiutato tantissimo, mi sta ancora aiutando in questi giorni a superare un po' la rabbiatura, insomma. Quindi ringrazio ancora, l'ho già fatto sui social network, ma lo ringrazio ancora tutte le persone che mi sono state vicine. Concordo pienamente. Un'ultima cosa, un messaggio ai tuoi compagni di nazionale, Danilo. Siamo arrivati anche da parte loro, tantissimo affetto, tantissimi messaggi, c'è comunque bisogno che tu ci sia in qualche modo vicino a questa squadra che più di tanti altri hai sentito sempre tua, no? Sì, sicuramente sono, a parte che mi hanno chiamato tutti i miei compagni di squadra, tutti allenatori, lo staff, ho sentito veramente tutti. Sarò vicino alla nazionale, nel senso che comunque con Simone Pianigiani siamo in contatto, ci scambiamo opinioni, e quindi sarò in contatto con la squadra, con i compagni di squadra, perlomeno telefonicamente, e poi dopo se riuscirò ad andare a vedere qualche partita lo farò volentieri.